Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. In programma, i misteri di Milano, eredità pesanti e la cosa più penosa,